sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiera prampò la finestra e ad un tratto Pinelli cascò. Commissario, io gliel'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuole dir bombe, ma eguaglianza nella libertà. Poche storie indiziato Pinelli, il tuo amico Valfreda ha parlato, lui è l'autore di questo attentato e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto. Tra i padroni bisogna cercare chi le bombe ha fatto scoppiare. Altre bombe verranno gettate per frenare la lotta di classe. I padroni e i burocrati sanno che non siamo più disposti a trattare. Ora basta, indiziato Pinelli, Calabresi nervoso gridava, tu lo grano apri un po' la finestra, quattro piani son duri da far. In dicembre a Milano era caldo, ma che caldo faceva, è bastato aprir la finestra, una spinta e Pinelli cascò. Dopo giorni eravamo in 3000, in 3000 al tuo funerale, e nessuno può dimenticare quel che accanto alla bara giurò. Ti hanno ucciso spezzandoti il collo, sei caduto ed eri già morto. Calabresi ritorna in ufficio, però adesso non è più tranquillo. Ti hanno ucciso per farti tacere, perché avevi capito l'inganno. Ora dormi, non puoi più parlare, ma i compagni ti vendicheranno. Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi. Per Valfreda, Pinelli e noi tutti, c'è soltanto una cosa da fare. Gli operai nelle fabbriche fuori stan firmando la vostra condanna. Il potere comincia a tremare, la giustizia sarà giudicata. Calabresi con guida il fascista, si ricordi che gli anni son lunghi. Prima o poi qualche cosa succede che il Pinelli farà ricordare. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiera prampò la finestra e ad un tratto Pinelli cascò.